Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Tutte rinvigorite le borse e soprattutto i titoli bancari dal risultato in qualche modo anticipato nei giorni scorsi, ma insomma arrivato ieri in via definitiva ieri sera dei cosiddetti stress test americani, ossia i test di carico, come si chiamerebbero in ingegneria, fatti su 19 banche americane per vedere se e come avrebbero reagito allo scenario peggiore, quindi a uno scenario di crisi e tensioni sui mercati. In realtà quello che voi avete letto su molti giornali a partire dal Sole 24 Ore è che complessivamente servirebbero e serviranno 75 miliardi di dollari di ricapitalizzazione, e sembrerebbe una brutta notizia o comunque una notizia negativa. In realtà di questi 75 miliardi la maggior parte, ossia quasi 34, servirebbero a Bank of America, altri 14 quasi, e quindi si arriva vicino ai 50 a Wells Fargo, se sommiamo gli 11 di GMAC, che è la divisione finanziaria di General Motors, praticamente quasi 70 miliardi, poco meno, 68 miliardi vanno a tre banche, Citigroup 5 miliardi e mezzo, ma tutto il resto, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, e poi American Express, MetLife, SunTrust, tutte banche che non avranno bisogno, stando ai test, di un aumento di una ricapitalizzazione. E questo a dire che complessivamente il sistema bancario americano ha retto a questi test. Ecco perché, e veniamo alla borsa di oggi, i rialzi sono molto forti, il 3% su Milano, sull'S&P MIB, il 2,5% sul MIBTEL, Parigi più 2,1%, Francoforte più 2,5%, Londra più 1,5%, con un euro in rafforzamento a 1,35%, ma soprattutto sono molto forti oggi le banche, anche quelle italiane. Il Banco Popolare guadagna il 9,6% e va a 6,80 euro. Unicredit guadagna 7,7 e torna sopra i 2 euro operazione, 2,13 euro. Monte dei Paschi più 7,5, Popolare di Milano più 5,5, Ubibanca più 4, Fondiaria più 3,90, Mediobanca più 3,4, e chiudiamo con Intesa che guadagna il 3%, mentre anche Alleanze Generali guadagnano il 3%. Più contenuto rialzo di Unipol, 0,5 percentuale. Chi perde? Beh, ST Microelectronics il 4,20, Tenaris il 2,6, Finmeccanica il 2, Autogrill pure, Mondadori meno 1,6%, Telecom Italia meno 0,90. Segnalo anche il buon andamento di Atlantia più 4,20, di Eni più 3,3% e sostanzialmente qui, e Bulgari più 6,5, e poi di nuovo Luxottica più 9%. Però insomma sono le banche oggi a guidare il rialzo di borsa, il rialzo come avete sentito generalizzato anche al resto d'Europa e all'America, visto che il Dow Jones guadagna l'1,2%, Parigi il 2,1%, Francoforte il 2,5%, Londra l'1,5%. Parleremo quindi di banche americane, di stress test, anche perché alcuni hanno detto vabbè, tutti felici e contenti, titolava oggi l'economista Onado sul Sole 24 Ore, anche se un po' di abbellimento contabile, un po' di vantaggi, di facilitazioni sono state date a queste banche per questi test, però era importante il risultato finale. Apriremo invece con un bilancio del primo anno del governo Berlusconi come dal punto di vista delle politiche economiche, chiaramente contestualizzandolo a un anno che oggettivamente è stato tutto tranne che facile sul fronte dell'economia e della finanza, anzi un anno diviso in due parti. La prima parte è quella che va fino a luglio-agosto, quando il problema era il petrolio e l'inflazione, secondo la Banca Centrale Europea, il petrolio a 140, l'inflazione alta, e poi invece la seconda parte, quella più lunga, quando la crisi è scoppiata, è entrata nella sua fase più virulenta, e cioè da agosto-settembre in poi fino diciamo al 9 marzo, mese in cui anche la borsa ha iniziato a riprendersi, ma la crisi è tutt'altro che finita. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie di questa giornata. Scende anche l'Euribor, minimo storico di nuovo all'1,31%, e il brusco calo dei tassi, operato l'ennesimo taglio arrivato ieri dalla Banca Centrale Europea, può portare un bonus di quasi 480 euro al mese per chi ha le rate del mutuo e ce l'ha a tasso variabile, ossia oltre 5.700 euro l'anno. Questo viene calcolato guardando quello che è il tasso medio e l'andamento dell'Euribor negli ultimi mesi. Per esempio, l'Euribor a tre mesi, il 9 ottobre 2008, valeva il 5,4%, la rata di un mutuo da 200.000 euro aveva raggiunto un massimo di 1.250 euro al mese a 30 anni, a tasso variabile con uno spread dell'1%. Oggi la stessa rata da mutuo da 200.000 euro con 1.250 euro, sarebbe diventata ed è diventata, se l'Euribor scende all'1,31 e resta lo spread all'1%, 770 euro, appunto, un risparmio di 480 euro al mese. La disoccupazione americana sale all'8,9% e dall'inizio della crisi, dalla fine del 2007, o meglio inizio 2008, in America sono stati persi 5.700.000 posti di lavoro. La crisi, scusatemi, l'emorragia peggiore dai tempi del dopoguerra, e non è un caso che in alcuni piccoli paesi americani si stiano stampando valute locali convertibili in dollari per mantenere il denaro nella comunità, una cosa mai vista prima. Però, a fronte di un dato così negativo, va detto che l'ultimo dato sulla disoccupazione americana, quello diffuso oggi ad aprile, ha visto comunque la perdita di 540.000 posti di lavoro, ma meno di quanto non ci si attendesse. Quindi c'è un'emorragia costante, ma in riduzione. Ancora, Fannie Mae ha chiesto, ricorderete, le due ballerine di Broadway, come furono chiamate, Fannie Mae e Freddie Mac, che da sole garantivano la stragrande maggioranza dei mutui americani. Comunque hanno chiesto al Dipartimento del Tesoro un'iniezione di capitali da 19 miliardi di dollari dopo aver registrato il suo settimo trimestre consecutivo in perdita, che ha portato il patrimonio di Fannie Mae sotto lo zero, il patrimonio netto. Segnali cautamente positivi arrivano anche dalla Germania, perché la produzione industriale a marzo è rimasta ferma ed è già un buon dato con i tempi che corrono, nel senso che la flessione della produzione industriale tedesca durava da 6 mesi costantemente, ogni mese c'era un segno meno, e anche a marzo gli economisti avevano previsto un meno 1,3%. Per fortuna, poi vedremo se il dato si consoliderà, è rimasta ferma. Il piano Fiat già continuano a aggiornarvi i nostri GR, non ci sono grossissime novità. La Fiat sta ancora esaminando le diverse soluzioni per un possibile scenario dopo un eventuale acquisto della Opel. Lo ha detto oggi Sergio Marchion, amministratore delegato del Lingotto, al termine del suo incontro a Magonza con il governatore della Renania Palatinato Kurt Beck. Marchion è anche ironizzato sul fatto che di piani Fiat sulla stampa ne siano usciti a bizzeffe. Ha detto Marchione: l'unica cosa che posso confermare è che abbiamo fatto delle analisi internamente sulle diverse soluzioni dopo un eventuale accordo con Opel, e le stiamo ancora studiando. Però oggi torna un altro quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, sull'ipotesi che il piano Fiat, se si fondesse con Opel, prevederebbe la chiusura di 2 impianti in Italia e il ridimensionamento di un terzo. Lo scrive appunto la FAZ citando il cosiddetto Project Phoenix. Progetto Fenice, questo sarebbe il nome del piano Fiat su Opel. Marchionne oggi comunque ha anche ricordato che la soluzione ideale per quello che riguarda Opel sarebbe chiudere entro la fine del mese, e ha sottolineato che i colloqui avuti negli Stati Uniti sono andati bene. Ancora dopo l'incontro, il governatore della Renania-Palatinato, appunto Kurt Beck, ha detto che dal punto di vista tedesco, dal punto di vista del Land di cui lui è governatore, ci sono dei punti interrogativi sul piano della Fiat, e ha ribadito i quattro impianti in Germania della Opel devono restare aperti. Toyota, così ci spostiamo anche alle case produttrici nipponiche, la prima perdita dal 1941. Questo è uno degli elementi che fa dire a molti attenzione quanto a date e quanto a riferimenti statistici. Questa crisi è veramente una crisi epocale. Un colosso come la Toyota mai aveva chiuso in perdita, e quest'anno, cioè 2008-2009, ha fatto meno 3,3 miliardi di euro. E si attendeva una cifra molto molto più bassa, intorno ai 2 miliardi di euro. Tenere alto il livello di allerta. Veniamo all'Italia e ci occupiamo di criminalità organizzata. Devo dire che oggi l'appello è arrivato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel corso del 157esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Modestamente, noi due giorni fa abbiamo dedicato una puntata proprio al rischio all'interno del rapporto ecomafie, che le mafie possono avere molta liquidità in questo momento ed essere, diciamo, approfittare della crisi di liquidità, della crisi economica, per rilevare aziende o prestare soldi alle aziende. Lo ha detto, appunto, lo ha ribadito oggi il Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto che le aziende in difficoltà, cioè quelle che stanno risentendo di più delle turbulenze economiche mondiali, potrebbero finire nelle braccia della mafia. Questo quando ieri sera, come avrete visto, la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, tra le quali l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, il suo successore Raffaele Lombardo e i 20 giornalisti dell'ufficio stampa della presidenza. Questo infatti è il motivo dell'iscrizione al registro degli indagati, cioè i 20 giornalisti dell'ufficio stampa della presidenza assunti con contratto di caporedattori nel 2004 per chiamata diretta. Ora, tutto si può dire, ma visto che parliamo anche di colleghi, 20 giornalisti per un ufficio stampa già sembra una cifra enorme. Tutti e 20 caporedattori sono una cosa fuori dalla grazia di Dio normalmente in un giornale, in una radio, in una televisione, in un settimanale, dove volete voi, per cui lo dico anche chi è meno addentro alla professione. 20 caporedattori assunti nel 2004 per chiamata diretta, e l'indagine è stata aperta a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Corte dei Conti, che aveva chiesto la Corte dei Conti ha chiesto il risarcimento del danno erariale per 4 milioni di euro. Lo ha chiesto a Cuffaro, a Lombardo e all'ex capo dell'ufficio legislativo e legale Franco Castaldi. Ne approfitto perché ieri abbiamo usato una battuta e l'abbiamo usata anche nella puntata sulle ecomafie di un film famoso, Johnny Stecchino, ironizzando su quello che era il problema di Palermo, e molti di voi ce l'hanno chiesto. Allora, vabbè, prima di partire con gli altri temi di questa puntata, ascoltiamo questo passaggio. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere, e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Il problema è il traffico, è una frase che ogni tanto usiamo quando ci sembra che qualcuno meni il camperlaia. Andiamo invece adesso al primo tema di questa puntata. Volete sapere giustamente di Fiat in borsa? Chiedo venia Non ho dato il titolo. Fiat guadagna il 2% a 7,62 euro. Primo tema, dicevo, la nomina di 5 viceministri, di cui molti relativi all'economia. Penso ad Adolfo Urso, che è appunto allo sviluppo economico con delega al commercio estero, tra l'altro Paolo Romani, sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Giuseppe Vegas all'economia. Erano sottosegretari che diventano viceministri, ci sono anche Roberto Castelli e Ferruccio Fazio per quello che riguarda infrastrutture e salute. Napolitano ha firmato il decreto poi che nomina la Brambilla, e quindi Michela Vittoria Brambilla ministro senza portafoglio, ma soprattutto oggi il Presidente del Consiglio ha anche fatto il punto sul primo anno di governo. Primo anno di governo, il punto lo facciamo anche noi. E allora, in 12 mesi il governo ha emanato 35 decreti legge, quindi il doppio dei 16 varati dal governo Prodi nello stesso periodo, 31 disegni di legge e 39 ratifiche di leggi internazionali. Praticamente su 68 provvedimenti approvati, 56 sono stati di iniziativa governativa. Sappiamo che le leggi, i provvedimenti possono arrivare dal governo, dal Parlamento, insomma, ci possono essere diverse fonti. La maggior parte dei provvedimenti fatti da questo governo, approvati dal Parlamento, scusatemi, erano sotto forma di decreto legge e quindi proposti dal governo. La fiducia è stata posta 15 volte, solo 7 provvedimenti sono stati di iniziativa parlamentare. Orgoglioso del lavoro svolto, il Presidente del Consiglio, che ha parlato di anno positivo. Credo che noi abbiamo sicuramente alle nostre spalle un anno positivo, io ne sono orgoglioso della collaborazione che c'è stata all'interno della squadra di governo. Oggi ho fatto i complimenti a tutti i miei ministri e li ho invitati anche a ciascuno di loro a tirare i conti di questo loro primo anno di attività e a produrre una informazione sulle tante cose che ciascun ministro ha prodotto nell'interesse del Paese e per meglio governare il Paese. Allora, come sempre, occupandoci solo ed esclusivamente della parte economica, cerchiamo di fare anche noi un bilancio di questo primo anno di politica economica del governo Berlusconi. Dino Pesole, penna e firma del Sole 24 Ore per la parte appunto che riguarda le politiche economiche nazionali. Buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, dicevamo all'inizio del programma che questo primo anno di governo Berlusconi sul fronte dell'economia può essere diviso in due periodi, uno più breve, ossia diciamo i primi 4 mesi fino a luglio-agosto, in cui i problemi erano, anche perché è importante contestualizzare, nessun uomo è un'isola e nessun paese è un'isola, potremmo dire. I problemi erano il petrolio che continuava a crescere, è arrivato fino a 149 dollari al barile, è arrivato il record 147,50 l'11 luglio del 2008 per la precisione, inflazione che aveva rialzato la testa, e questa è la prima fase. Poi c'è la seconda fase, diciamo da agosto settembre dell'anno scorso in poi, crisi epocale, e le cifre le abbiamo raccontate in questi mesi. Partiamo dai primi 4 mesi, cito in maniera molto sommaria l'ICI, l'eliminazione dell'ICI, la Robin Tax che poi ha avuto invece una vita relativamente breve, quella che doveva servire appunto a prendere i soldi da petrolieri e quant'altro e ridistribuirli, e però anche la finanziaria fatta a luglio e non emendabile. Dino. Beh sì, diciamo che questi 12 mesi di attività di governo sono stati caratterizzati, come tu dicevi poc'anzi, almeno da agosto-settembre in poi, da una serie di emergenze. L'emergenza globale, e quindi quei riflessi che la crisi internazionale, finanziaria ed economica ha avuto e sta continuando ad avere sull'economia nazionale, e poi l'emergenza delle scorse settimane, il terremoto in Abruzzo. Certamente col senno di poi si potrebbe obiettare che alcune delle misure che sono state approvate nei primissimi mesi di governo, anche alla luce degli eventi successivi, forse sarebbe stato più opportuno non farle, perché ad esempio i 2,2 miliardi dell'abolizione dell'ICI sarebbero forse stati utili in questi tempi di magra per irrobustire il pacchetto anticrisi. Tu citavi la Robin Tax, certo era un altro contesto, il fatto sta che poi il governo si è trovato costretto a fare esattamente l'opposto, vale a dire a entrare con i piedi per sostenere appunto poi la produttività del paese, quindi aiutare banche che erano in sofferenza. E poi qualcuno sostiene che anche, diciamo, la vicenda Alitalia, con gli effetti sui conti pubblici che ha comportato, ha avuto un suo peso. Quanti soldi è costata la vicenda, nel senso di aver riaperto la partita all'Italia? Perché noi abbiamo sempre raccontato che l'Italia perdeva circa 1 milione di euro al giorno, siamo intorno ai 300 milioni? Sì, 300-400 milioni, questa è la cifra che si è fatta a ridosso. Certamente mettendo insieme questi tre addendi si poteva tirar su qualcosa come 3 miliardi e certamente sarebbero stati utili. Obiettivamente però occorre riconoscere che il governo, avendo, come tu osservavi poc'anzi, anticipato per la prima volta a luglio l'intera manovra triennale, oltre 30 miliardi sui conti pubblici, ha in qualche modo posto in sicurezza i conti, e questa si è dimostrata alla luce degli eventi successivi una scelta, diciamo, positiva. Adesso ci arriviamo, Dino, devo una risposta a un ascoltatore che dice: ma insomma, parlate tanto delle banche e poco delle piccole imprese. Allora, punto primo, senza polemica, abbiamo fatto decine di puntate invitando i presidenti della piccola industria, i piccoli imprenditori, i presidenti delle confindustrie territoriali, che nella stragrande maggioranza dei casi rappresentano soprattutto i piccoli e medi. In secondo luogo, attenzione, perché parlare di banche in questo momento, che sono state l'origine della crisi, le banche d'affari americane ma non solo, significa anche parlare di quando questa crisi tornerà in una sua parte più fisiologica, e spesso ricordiamo che le banche devono fare di più proprio per le piccole imprese artigiane. Abbiamo avuto il presidente delle piccole imprese artigiane proprio la settimana scorsa. Insomma, non mi sembra che ci dimentichiamo delle imprese. Alcuni ascoltatori invece, immagino anche in questo caso imprenditori in ascolto, dicono: mi dite però, scrive Marcello, sono un elettore di centrodestra, mi dite un solo provvedimento fiscale per le imprese. Allora, di questo parliamo nella seconda parte, chiudiamo la parte relativa alla finanziaria, Dino, e poi arriviamo anche ai provvedimenti fiscali per le imprese, sempre però contestualizzando, cioè la crisi è stata veramente epocale. Legge finanziaria blindata per 3 anni, 30 miliardi in 3 anni, non emendabile, che di fatto ha bloccato quello calvario che di solito testimoniavamo. Da luglio, a luglio esce il DPF e poi iniziava l'assalto alla diligenza, fino a novembre-dicembre. Sì, questo senz'altro è stato un fatto positivo, aver acquisito una manovra prima del tradizionale appuntamento autunnale è stata una scelta positiva. Occorre osservare però, d'altro canto, che poi l'emergenza economica internazionale ha indotto il governo a intervenire a più riprese con 2-3 decreti legge che di fatto potrebbero essere assimilati tutti a delle piccole mini finanziarie. E su queste ovviamente c'è stato un articolato dibattito parlamentare, sono stati emendamenti, voti di fiducia, dunque diciamo che il percorso è stato un po' a tappe, accidentato ma in qualche modo obbligato dalla crisi. Il quadro complessivo che ne emerge è sicuramente il quadro di un governo che ha cercato di far fronte all'incalzare della crisi come poteva. Devo dire che diciamo, il bilancio alla fine in termini come dire, complessivi di intervento finanziario ancora non è chiarissimo, perché il presidente Berlusconi, mi ricordo, parlò tempo fa di un intervento complessivo di circa 80 miliardi di euro, però all'interno di questi 80 miliardi vanno conteggiati pure tutti gli stanziamenti che sono stati, diciamo, dirottati dai fondi europei e che quindi vanno diretti a sostenere le infrastrutture. Allora diciamo, Dino, facciamo una cosa, dopo le informazioni per meteo e la pubblicità affrontiamo la seconda fase di questo anno, cioè siamo arrivati diciamo a luglio, agosto, legge finanziaria. Devo dire da più parti è abbastanza univoco il giudizio, apprezzato il metodo, la fai per tre anni, la blindi, non eviti il calvario dell'assalto alla diligenza e questo è stato sicuramente apprezzabile. A settembre però il governo torna dalle vacanze, gli italiani dalle vacanze estive, e scoppia nella maniera più drammatica immaginabile la crisi bancaria e finanziaria, i crolli di borsa e quant'altro. Lì cambia radicalmente lo scenario, il petrolio prende a crollare come prezzo, l'inflazione non è più un problema, i tassi scendono e non si capisce dove si arriverà al punto di caduta con questa crisi. ...17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per affrontare e concludere il tema di apertura, un anno di governo Berlusconi, visto che ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio sul fronte chiaramente economico. Allora, alcuni di voi mandano messaggi al 349-238-6666 ricordando alcuni provvedimenti che però, lo dico in maniera molto oggettiva, fanno parte di una prima fase, di un primo scenario mondiale, prima dello scoppio della crisi vera e propria, e mi riferisco per esempio a chi critica la defiscalizzazione degli straordinari. Erano tutti provvedimenti che potevano avere un senso in una situazione più o meno normale come l'ICI. Quando Dino Pesole a settembre inizia a crollare la borsa e le banche americane non si capisce che tipo di resistenza hanno, poi abbiamo scoperto che non avevano affatto oltre 3.000 miliardi tra garanzie e ricapitalizzazioni messe dai governi, e iniziano a venire giù anche tutte le banche europee, lì la situazione si fa molto molto grave. I provvedimenti presi dal nostro governo, fermo restando che noi abbiamo metà del debito europeo e il secondo debito o terzo debito più grande al mondo. Sì, beh, ci sono stati vari provvedimenti, almeno tre decreti, ricordo a memoria, ci sono state le norme salva banche, le norme per cautelare diciamo, i risparmiatori, e poi le norme che hanno attinto al Fondo Sociale Europeo 8,2 miliardi per rimpinguare diciamo, la dote per gli ammortizzatori sociali, lo sblocco dei 16 miliardi del CIPE da utilizzare per le grandi opere. Vorrei aggiungere, anche per rispondere all'ascoltatore che chiedeva che cosa è stato fatto per le imprese. Ma dunque, io direi sostanzialmente a memoria citerei tre cose. Cioè il governo ha disposto la sospensione degli acconti IRES e IRAP di fine novembre, gli acconti fiscali. Ovviamente è un beneficio momentaneo perché serviva a immettere liquidità in un momento diciamo di grave crisi di liquidità. Adesso obiettivamente quegli acconti poi bisognerà poi versarli nel saldo di giugno. Comunque questo è stato fatto. Dopodiché ricordo diciamo la polemica che era nata con Confindustria, con la presidente Marcegaglia, che era andata a chiedere soldi freschi. Allora ascoltiamola la Marcegaglia. Ecco. Questo è il momento del linguaggio della verità. Noi rischiamo di perdere nei prossimi mesi i veri campioni del Made in Italy, quelli che hanno fatto grande l'Italia e che devono continuare a fare grande l'Italia. Proprio per questo noi non vogliamo assistere all'ennesimo conflitto tra istituzioni, ma vogliamo vedere la massima collaborazione tra governo, Banca d'Italia, banche e imprese. Adesso servono soldi veri. I denari a sostegno delle imprese devono essere veri, certi e soprattutto devono arrivare subito. Così Emma Marcegaglia, a cui tu facevi riferimento, Dino Pesole, all'assemblea, al convegno di Confindustria a Palermo, convegno proprio della piccola impresa di Confindustria. Eravamo al praticamente 14 marzo del 2009 e qui però ti chiedo un po' più di analisi, perché abbiamo bruciato diciamo sei mesi di crisi in maniera molto rapida. Che cosa è successo? La crisi ha fatto temere molto per il sistema bancario, e se veniva giù il sistema bancario veniva giù anche il resto. ci si è accorti che le banche, per recuperare, ormai è storia, per paura di, per, diciamo, perché non si fidavano le une delle altre e in qualche modo anche per recuperare i buchi che avevano accumulato sui prodotti tossici, hanno di fatto dato un giro di vite sul credito ai privati, ma soprattutto alle imprese. A quel punto le imprese chiedono aiuti, nel senso di garantire liquidità, non chiudere il credito, c'è un'economia che va in recessione. Perché si arriva a metà marzo con la Presidente del Consiglio Marcegaglia che a questo punto chiede soldi veri, come... Prego. Beh, dunque questo attiene un po' anche alla struttura, diciamo, dei nostri conti pubblici e del bilancio, perché un conto poi è annunciare stanziamenti, un conto è poi renderli spendibili effettivamente. Giustamente la Presidente Marcegaglia si rese conto a un certo punto che ad allora erano stati fatti, diciamo, molti annunci, però per le imprese era stato fatto poco, nel senso che non c'erano soldi freschi che erano affluiti nelle casse delle imprese per far fronte alla crisi di liquidità che c'era per effetto del restringimento del credito. L'effetto, diciamo, di questa presa di posizione, ricordo, fu un incontro a Palazzo Chigi al termine del quale il Presidente del Consiglio si impegnò a diciamo, concedere appunto fondi, soldi freschi veri per, se non ricordo male, una cifra che si aggira tra gli 1,2 e gli 1,5 miliardi. Sì, dovrebbe essere 1,3 miliardi che andava a sommarsi ai confidi e attraverso un meccanismo che adesso non possiamo spiegare per esteso, siccome sono garanzie, questo poi genera e può muovere liquidità per un effetto classico leva, insomma, per 60-70 miliardi di euro. Questo era il calcolo che aveva fatto lo stesso presidente, se non ricordo male, della piccola industria di Confindustria, Morandini. Esatto. Perché quando tu hai quei soldi lì che sono particolarmente garantiti, la banca, è un discorso un po' lungo anche per quello che riguarda l'esposizione in Basilea 2, la banca può esporsi un po' di più perché quei soldi sono particolarmente garantiti, mettiamolo un po' così, un po' impreciso, ma risponde alla sostanza. E questo, diciamo, il momento più delicato forse per quello che riguarda le iniziative del governo con le imprese, perché in effetti la critica, come tu ricordavi, fu di dire il governo ha annunciato molto ma ancora i soldi non abbiamo visti. Quanto a quello che scrivono alcuni ascoltatori, ma le cifre sono state modeste, è vero, cioè rispetto a quello che hanno stanziato, cioè, i 20 miliardi di incentivi della Francia, penso all'America, lasciamola stare perché è fuori da ogni grazia di Dio, 787 miliardi, i 75 miliardi della Spagna, i 130 miliardi della Germania e anche i soldi, i 41 miliardi del Regno Unito, noi abbiamo stanziato 6 miliardi e mezzo di incentivi. Da dire due cose però, che da un lato questa è anche una buona notizia, vuol dire che eravamo messi meno male in alcuni settori, soprattutto bancari, ma non solo, di altri paesi. Il secondo elemento è il debito pubblico italiano. Noi non abbiamo i margini che hanno altri paesi. Che cosa è stato fatto per tenere in piedi il sistema finanziario e bancario, Dino? Beh, obiettivamente questa critica è stata avanzata da più parti. Certamente l'ammontare delle risorse messe in campo dal governo è esiguo rispetto, diciamo, alla gravità della crisi, però occorre precisare a onor del vero e a onor dell'obiettività, occorre precisare che il governo, secondo me, una mossa giusta l'ha azzeccata ed è stata quando, all'indomani dei grandi fallimenti bancari negli Stati Uniti, quando sui mercati c'era l'assoluto panico, ci fu un annuncio congiunto del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia in cui dissero che il governo comunque non avrebbe consentito il fallimento di banche, non avrebbe permesso che nessun risparmiatore ne avrebbe subito le conseguenze e in effetti poi sono intervenuti anche per cautelare, diciamo, i risparmiatori da questo punto di vista. Dunque c'è stato un effetto annuncio che, devo dire, in qualche modo è stato però efficace. D'altro canto occorre ricordare che noi abbiamo, nelle tante debolezze del nostro sistema economico, abbiamo alcuni piccoli punti di forza. È vero che abbiamo un altissimo debito pubblico, però abbiamo un, diciamo, indebitamento del settore privato, quindi dico complessivamente famiglie e imprese, che è nettamente inferiore alla media degli altri paesi nostri partner. Dunque questo è un elemento di forza sul quale il governo ha fatto... Sì, i risparmi degli italiani, insomma, sono costanti e solidi, a differenza dei, diciamo, dei conti pubblici degli italiani. Informazioni per chi è in viaggio, ultimo aspetto, e veniamo ai giorni nostri, i Tremonti Bond, perché alla fine arriva la decisione di dare una disponibilità complessiva di 10-12 miliardi di euro, che con un effetto leva, anche qui si possono moltiplicare più o meno per 10-15, per cui garantirebbero alle banche poi di muovere capitali per circa 150 miliardi, non tanto per salvare le banche, ma con l'obiettivo di non dare alle banche la scusa di chiudere i rubinetti. Cioè l'obiettivo era: adesso vi diamo delle garanzie, dei bond, delle obbligazioni, Tremonti Bond, così voi poi li rigirate alle imprese e ai privati cittadini. Questi bond però non sono ancora arrivati. Dicevamo, un'operazione delle obbligazioni Tremonti per non tanto salvare le banche, anche se chi vi ha fatto ricorso erano le banche che avevano più difficoltà di prodotti tossici, penso al Banco Popolare. Chi vi ha fatto ricorso è sbagliato, chi ha prenotato queste obbligazioni. Banco Popolare 1 miliardo e 4, Intesa 4 miliardi, Monte dei Paschi 2 miliardi, Banca Popolare di Milano 500 milioni, Unicredito fino a 4 miliardi. Queste le dichiarazioni di intenti. L'obiettivo era ed è dare alle banche, grazie a un effetto leva, la possibilità o non avere più scuse per tenere i rubinetti chiusi o semichiusi nei confronti di imprese private e cittadini. Però qualche giorno fa in questo programma il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, ci ha ricordato, perché tra terremoto e altri problemi ci eravamo un po' dimenticati dei Tremonti Bond, che per ora non si è visto un'obbligazione. Per quanto mi risulta, il Ministero dell'Economia non ha ancora provveduto a sottoscrivere titoli di capitale emessi dalle banche sulla base delle regole che sono state approvate dal Parlamento e rese esecutive attraverso l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e della convenzione che è stata stipulata dall'ABI. L'ABI non è delegata a verificare l'evoluzione di questa materia in termini concreti, perché questo riguarda ogni singola banca, ma per quanto mi risulti nessuna banca ha ancora incassato alcunché da parte del Tesoro. Dino Pesole, sarà perché le banche in realtà se la stanno cavando da sole, o è un modo anche per prima annunciare i soldi e poi darli un po' dopo, anche per, così, per motivi di conti pubblici, di bilancio? Beh, anche qui si possono, direi, sono possibili due letture della vicenda, una benevola e una un po' più malevola. Quella benevola è senz'altro di chi sostiene che se, diciamo, non sono stati attivati questi strumenti vuol dire che non ce n'è stato bisogno, o almeno non c'è stato, diciamo, bisogno nella misura che era stata ipotizzata. Quella malevola è quella di chi dice che è l'ennesimo effetto annuncio, e in effetti, poiché non sono ancora state sottoscritte le quote di capitale emesse dalle banche, sul quale poi il Tesoro deve, come dire, applicare il proprio timbro di garanzia, e poi ricordo, non è poi un'operazione, diciamo, neutra, no. Perché ovviamente su queste obbligazioni c'è un interesse. Tra il 7,5% e l'8,5%. Evidentemente poi alla fine potrebbe essere anche un affare per il Tesoro. Certo. Credo che la risposta più corretta tra queste due letture sia ancora una volta quella di una situazione di bilancio che è, come dire, molto critica, perché obiettivamente noi, seppur Moody's tempo fa ha detto che il nostro debito pubblico, diciamo, non è a rischio, però insomma noi abbiamo nelle previsioni della Commissione Europea un debito che crescerà al 114% del prodotto interno lordo, un deficit annuale che supererà il 4,5%. Sì, si potrebbe dire che va al comune mezzo gaudio, siamo in buona compagnia poiché mezza Europa in queste condizioni, ma non tutti i paesi europei sono messi male come noi quanto a debito. Quindi io credo che da questo punto di vista forse la prudenza del ministro Tremonti sul fronte della gestione del debito sia da condividere. Obiettivamente però, nel momento in cui si annuncia, diciamo, uno strumento, probabilmente si dovrebbe dar seguito, diciamo, certo, rapidamente, sì, a questo, perché sennò poi appunto si ricade nell'effetto annuncio. Sì, va detto che il ministro Tremonti era particolarmente preoccupato tra novembre, dicembre e gennaio per i 220 miliardi. Noi ogni anno rifinanziamo il nostro debito, come avviene per qualunque famiglia che avesse un debito, deve andare a rinegoziarlo magari con la banca, anche lo Stato italiano lo rinegozia con i creditori. Non è che lo rinegozi tutto, perché sennò andremo a gambe all'aria subito. Rinegozia le parti che sono in scadenza, le rate in scadenza, chiamiamole così. Ecco, c'erano, ci sono, ma iniziano, c'erano 220 miliardi di obbligazioni di debito da rinegoziare. Il ministro Monti era, a mio avviso molto correttamente, preoccupatissimo a fine novembre, dicembre, che se la crisi avesse assunto dimensioni epocali, qua i soldi in giro non ce n'erano per nessuno, le banche non se li prestavano, i governi ne avevano bisogno a loro volta per prestare le banche. Mi sembra, Dino, che su questo fronte ci sia un po' più di tranquillità, a giudicare dalle ultime aste dei bot. Sì, c'è un po' più di tranquillità, però bisogna aggiungere un ulteriore elemento di preoccupazione, almeno diciamo, come tu riferivi correttamente, di qualche mese fa, che per una volta non siamo soltanto noi, diciamo, a chiedere soldi, ma c'è una concorrenza fortissima a livello europeo. C'è la fila perché ogni paese sta, come dire, ricorrendo a massicce emissioni di debito pubblico per finanziare gli interventi a sostegno dell'economia, e dunque questo comporta una concorrenza serrata sui titoli e può comportare delle variazioni nei rendimenti, dunque nei tassi. Allora attenzione, il pericolo c'è. Allora credo che forse un minimo di prudenza sia giustificata. Io volevo dire soltanto un'ultima cosa. Sì. In conclusione, ricordare che c'è un altro aspetto, un altro punto per chiudere anche il pacchetto, diciamo, di misure, sì, che sono state immaginate per le imprese, che riguarda la partita degli studi di settore. Sono oltre 300 gli studi di settore che il governo ha annunciato di voler modificare per tener conto, appunto, della crisi economica. Questo, appunto, l'effetto di questa manovra ancora non è chiaro, perché la partita è in via di diciamo di sviluppo, però evidentemente anche lì mi sembra di cogliere un segnale preciso, cioè quando c'è una crisi di questa portata, allora in qualche modo si deve anche allentare un po' la presa. Quindi gli studi di settore, che sono un elemento analitico a priori, diciamo, dei ricavi e dei compensi soprattutto delle piccole imprese, il governo ha detto rivediamoli, ovviamente se li rivede li rivedrà, diciamo, è sul basso, senso estensivo, non certo restrittivo. Vedremo però quando li rivedrà, nel senso che anche qui l'annuncio c'è stato, poi vorremmo commentare la misura vera e propria, perché esatto, è importante per far respirare in questo caso non solo le medie imprese, ma anche e soprattutto le piccolissime imprese, le imprese individuali, le ditte individuali, le imprese artigiane, le imprese con meno di 10 dipendenti. Grazie a Dino Pesole, questo è il nostro percorso, spero il più obiettivo possibile, dell'ultimo anno del governo Berlusconi. C'è chi scrive, è stato anche molto sfortunato nel 2001 quando andò al governo, ci fu l'11 settembre, adesso un altro governo, prima il petrolio record, poi la crisi finanziaria peggiore, poi anche il terremoto. Ho capito, oggettivamente ha avuto anche degli elementi esterni non normali, mettiamola così. Adesso però la borsa, e quindi passiamo al secondo grande tema della puntata, tutte le borse festeggiano i risultati dei test americani alle banche, che tranne tre hanno tutte le altre ampiamente superato, e addirittura il Banco Popolare, quello di Tallis, quello che era finito a 2,06 euro, guadagna oggi l'11% e chiude a una cifra vicina ai 7 euro per azione. Ne parliamo subito con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Guido Maurino, un piccolo aggiornamento per quello che riguarda la borsa. Avevo un problema io col computer, chiedo scusa se ho avuto un po' di esitazione, non funzionava banalmente il mouse. Banco Popolare più 11,2% a 6,89 euro. Effetto stress test, poi ne parliamo nella seconda parte del programma? Sì, soprattutto effetto stress test, non solo per il Banco Popolare ma anche per Unicredit, che oggi ha guadagnato l'8,87%. E infatti va a 2,16 euro, la Popolare di Milano più 6,5, sopra i 5 euro a 5,2, Monte dei Paschi più 6,11 a 1,33 euro, e ancora Intesa più 3,4% a 2,56 euro. :18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere il commento sulla buona, più che buona giornata di borsa oggi. Il 3,5% è il rialzo finale dell'S&P MIB, il Mibtel più 2,81%, tra l'altro Milano, vuoi perché i titoli bancari pesano molto sulla borsa italiana, è la migliore oggi in Europa. Parigi più 1,88, Francoforte più 2,3, Londra più 1,5, l'America sta guadagnando l'1,5%. Tra la, ancora il Mibtel si riporta sopra i 16.000 punti, l'S&P Mib sopra i 20.500. Dicevamo delle banche, siccome abbiamo un'ampia pagina sugli stress test americani, le banche USA, andrei oltre, i rialzi fortissimi, Banco Popolare più 11,2, Unicredito più 8,90, Popolare di Milano più 6,5, UbiBanca più 6,5, Monte dei Paschi più 6,1, Mediobanca più 3,80 e ancora vogliamo mettere anche gli assicurativi, Alleanza più 3,5, il risparmio gestito Mediolanum più 4,2, Fondiaria più 3,94, Generali più 3,4, Intesa più 3,4%, Fiat più 2,5. Direi Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore, concentriamoci sugli altri titoli. Luxottica più 10,1%. Sì, Luxottica oggi ha registrato un gran balzo, guadagnando il 10,14% a 15,96 euro. La ragione risiede soprattutto nei conti presentati ieri dalla società, che ha pubblicato i risultati relativi al primo trimestre, ma i risultati, diciamo, non sono stati, sono stati anche in calo, l'utile è sceso del 22,5%, però ad aprile si è registrata un'inversione di tendenza sui ricavi. I ricavi, ha comunicato la società ad aprile, sono tornati a crescere e quindi anche gli acquisti sul titolo si sono fatti più importanti nella giornata di oggi. Questo per quello che riguarda Luxottica. Tiscali, visto che poi è arrivata la conferma questa mattina che Tiscali ha finalmente, dico perché va avanti da settimane, mesi, questa vicenda, ha ceduto le attività inglesi a Carphone per 255 milioni di sterline, come si è mossa? L'effetto annuncio, diciamo, c'era già stato nei giorni scorsi, per cui oggi il titolo addirittura ha ceduto l'1,74%, ha registrato alcuni scossoni, prima al rialzo, poi al ribasso subito dopo la notizia, ma diciamo che nel pomeriggio si è assestato il movimento del titolo, la chiusura è addirittura stata negativa, diciamo che in qualche modo era già stato reso tutto abbastanza noto negli scorsi giorni, per cui poca effetto in borsa. L'ufficializzazione non ha dato più grandi motivi per scommettere sul titolo. Ancora due titoli, uno che è molto guadagnato come Atlantia più 4,5%, ci sono i conti lì, l'altro che è il peggiore è ST Microelectronics meno 3,7%. Allora sì, Atlantia oggi ha presentato i conti trimestrali, anche qui il risultato netto è in discesa, anche se ha fatto comunque meglio delle attese. Calano anche i volumi di traffico, che fanno segnare un meno 3,5%, però diciamo che sul primo trimestre ancora non pesavano gli aumenti tariffari sulle tratte autostradali, che sono poi scattati solo dal primo maggio, quindi sostanzialmente sono stati giudicati i risultati nonostante tutto buoni. Per quello che invece riguarda ST Microelectronics, oggi ha perso il 3,72%, a 5,04 euro, nessuna ragione particolare se non la debolezza di tutto il settore, diciamo, dei tecnologici, anche il suo concorrente Infineon oggi stava perdendo quota, per cui nessuna ragione particolare, ma la debolezza che poi in questa settimana abbiamo visto spesso dei titoli più legati alle tecnologie. E poi va anche detto che quando c'è una tale rotazione per cui si torna a comprare i bancari, è chiaro che da qualche altra parte si vende. Grazie e buon fine settimana a te e Guido e ai colleghi dell'agenzia di stampa del Sole 24 Ore Radio Core. Adesso ultimo tema, il commento, il risultato, questi test americani alle banche che tanto ha infiammato la borsa, anche perché c'è chi dice sì, tutto bene, però un po' di aiuti queste banche le hanno avute in questi test. Eh sì, perché abbiamo scoperto che servono 75 miliardi di dollari, questa cifra ancora, di capitali alle banche americane, è una cifra immensa, però se si va a guardare nel dettaglio è una cifra che viene assorbita quasi interamente da tre banche. Bank of America si becca la fetta più grossa, 34 miliardi, Wells Fargo 13 miliardi e 7, GMAC 11 miliardi e 1, la divisione finanziaria di General Motors, e poi anche Citigroup, ci mettiamo dentro 5 miliardi e 5. Poca roba per le altre, Morgan Stanley 1 miliardo e 8, JP Morgan Chase niente, Goldman Sachs niente, Capital One Financial niente, poi anche American Express, MetLife, US Bancorp, SunTrust, pochissimi soldi di ricapitalizzazione per tutte le altre banche. Soddisfatto Tim Geithner, segretario al tesoro americano. Mentre poco fa però Barack Obama ha messo in guardia, ha detto l'America è ancora in recessione, però sentiamo questo passaggio della conferenza stampa di Timothy Geithner in cui ricorda anche quanto è servita l'iniziativa del governo americano per poi avere degli stress test che tutto sommato possono essere considerati positivi. This is the next step in a very important series. È un passo ulteriore che si inserisce nella serie di misure prese dal governo e dal Congresso in accordo con la Federal Reserve. Sono azioni fondamentali per far tornare il credito a circolare normalmente, per essere sicuri che ci sia il credito necessario per sostenere la ripresa e aiutare l'economia a tornare sul giusto binario. Quanto è stato deciso porterà a un livello di trasparenza senza precedenti nella parte sana del nostro sistema bancario. La chiarezza prenderà il posto dell'incertezza. Sarà più facile per i capitali privati entrare nel sistema finanziario. Aumenterà la capacità di prestito delle banche e gli aiuti dati dal governo verranno rimpiazzati da capitale privato. Il nostro auspicio è che da oggi le banche possano tornare al loro ruolo fondamentale. I vertici delle nostre banche devono lavorare sodo per riconquistare la fiducia della gente. Per arrivare a questo, vogliamo vedere l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese, perché è un aspetto fondamentale per la ripresa economica. Voglio sottolineare che le misure prese finora hanno contribuito all'abbassamento dei tassi e le cose sono migliorate sui mercati finanziari. C'è ancora molta strada da fare, siamo solo all'inizio e continueremo a lavorare per far sì che il sistema finanziario sia forte abbastanza per fornire il credito necessario per favorire la ripresa. Soddisfatto Timothy Geithner, segretario del tesoro americano, commenti un po' più così pacati in chiaroscuro da parte di molti editorialisti oggi su vari quotidiani. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento dall'America, dove insegna alla New York University, Alberto Bisin. Buonasera professore. Buonasera. E grazie anche sempre dall'America, sempre da New York, al corrispondente del Sole 24 Ore Mario Platero. Grazie anche a te Mario. Buonasera Sebastiano. Le informazioni per chi è in viaggio e poi sentiamo tutti contenti che non siano emersi buchi, puffi incredibili, però sentiamo perché a partire da l'ABC oggi ha scritto un'occasione persa questi test per le banche americane. Ultima parte del programma. Allora, professor Bisin, questi test andavano a valutare come avrebbero reagito le banche, le 19 principali banche americane, in caso dello scenario peggiore, e abbiamo visto che 3-4 hanno bisogno complessivamente di 75 miliardi, ma le altre hanno retto questi test di carico. Perché lei parla di occasione persa? Sì, parlo di occasione persa perché l'obiettivo di questo test doveva essere quello di, come dire, dare fiducia ai mercati e rendere trasparente la situazione dei bilanci delle banche, che fino ad oggi non è stata trasparente, appunto. E la mia impressione è che l'immagine che si ha sia quella che invece trasparenza non è stata fatta, nel senso che, beh, da una parte il test doveva valutare i bilanci delle banche sotto ipotesi estremamente negative sull'andamento dei mercati finanziari ed economici, mentre in realtà sono stati valutati essenzialmente sulla base di quello che sta succedendo, o poco peggio. E poi soprattutto i risultati sono stati chiaramente ed esplicitamente, vorrei dire, contrattati con le banche stesse, quindi l'investitore dal di fuori che non conosce i dettagli resta estremamente dubbioso, proprio perché non si sa a che cosa ha portato questa contrattazione, insomma. Quindi lei dice, come se per fare il test sulla sicurezza di una macchina, uno invece che usare la prova dell'alce, il terreno bagnato, tutte le condizioni peggiori per capire quanto regge, avesse usato un terreno più o meno asciutto, o bagnatino ma non troppo, e con curve tutto sommato morbide. Mario Platero, vi chiedo estrema sintesi perché ho anche un'altra domanda da farvi. Sei d'accordo, cioè, che un po' di aiutino queste banche le hanno ricevute? Hanno ricevuto? Dunque, c'è da dire che in effetti non solo non è stata fatta, come diceva Bisin, trasparenza completa sui bilanci, diciamo, delle banche, magari sono anche un po' messi d'accordo, ma non è stata neanche fatta trasparenza completa sulle procedure. Per esempio, noi non sappiamo a che livelli certe proiezioni sull'andamento dei tassi di interesse sono stati calcolati per così immaginare l'andamento futuro dei dati macroeconomici. Non solo, ma alcuni dati, e questo lo sappiamo con certezza, parte del modello macroeconomico che doveva poi confrontarsi con le situazioni, appunto, di stress eventuali delle banche, erano dati vecchi, già superati in qualche modo dai fatti. Quindi sicuramente ci sono dei problemi di trasparenza o comunque di non completa affidabilità. Ecco, detto questo, l'aspetto positivo di questo stress test, ed è quello su cui poi puntano e giocano in qualche modo i mercati in questo momento, è che ha comunque creato dei parametri. Prima non si conoscevano, non c'erano delle valutazioni globali e complessive. Oggi abbiamo una cifra che può sembrare spaventosa, ma il Tesoro dice tra il 2009 e il 2010, nella peggiore delle ipotesi, queste banche complessivamente rischiano ancora di perdere 600 miliardi di dollari. Beh, è una cifra che fa venire i brividi. Non sappiamo se è attendibile, dicono nella peggiore delle ipotesi, però è una cifra finita. Finora il terrore, la preoccupazione del mercato era quella di non conoscere davvero quanto ci fosse ancora di drammaticamente poco solido e fragile nei bilanci di queste banche. Allora, quindi questo, io credo, è piaciuto al mercato, e per questo abbiamo visto i rialzi di oggi in borsa. Allora, professor Bisin, e poi Platero, abbiamo ancora 4-5 minuti. Forse questo, l'aspetto che sottolineava Platero, professor Bisin, è un aspetto più che rilevante, cioè l'effetto psicologico. Uno può dire, va bene, hanno avuto un po' di aiuto, hanno calcolato i prodotti tossici non al prezzo di mercato, ma gliel'hanno fatti calcolare loro, le condizioni del test erano un po' favorevoli, però l'effetto psicologico è stato di dire, vabbè, adesso sappiamo quanto grande è il danno, prima avevamo un buco nero, un pozzo senza fondo, e da questo punto di vista i test hanno funzionato nel ristabilire una variabile fondamentale per i mercati com'è la fiducia, e comunque anche l'idea di quanto grave sia il danno. Sì, sono d'accordo, cioè per il momento almeno sembra di sì. Questa questione della trasparenza gioca nel medio-lungo periodo, nel senso che nel momento in cui ci sarà, spero non succeda, ma se ci saranno informazioni, diciamo, contrarie, si tornerà indietro e si penserà come è stato fatto questo stress test, ci si ricorderà che è stato fatto male, e a quel punto c'è il rischio che le aspettative si coordinino su qualcosa di estremamente negativo. Questo è il punto, ovviamente, fin tanto che le notizie sono buone, se nulla di grave succede, ci si attacca un po' a tutto, i mercati si attaccano a tutto, e in particolare in questo momento si attaccano ai risultati dello stress test. Questo è chiaramente positivo. Sono perfettamente d'accordo su questo punto. Dicevo, un'occasione persa, perché questo, ho l'impressione, ho il timore che questo ci porti avanti fino al prossimo risultato negativo e poi saremo da capo, insomma. Beh, speriamo di no, Bisin, perché sta per partire il gufo, altrimenti che era già andato via per il weekend, vista la settimana buona di borsa. Ma Mario Platero, il tuo commento l'abbiamo già capito su questo aspetto. C'è un altro aspetto che mi interessa, e cioè, se da un lato oggi i dati americani sulla disoccupazione sono stati migliori delle stime, per carità, persi ad aprile 539.000 posti di lavoro, con un totale di 5.700.000 posti di lavoro persi in America da fine 2007, però il dato è complessivamente migliore delle attese. Barack Obama poco fa ha detto, attenzione, siamo ancora nel bel mezzo di una recessione. Cosa teme Obama? Adesso che il pendolo vada troppo verso l'ottimismo? Quel che sa è che noi abbiamo un rallentamento, una stabilizzazione della recessione, cioè noi eravamo davanti a un precipizio, noi siamo precipitati da un picco di una montagna così con una rapidità veramente spaventosa, non si sapeva dove ci sarebbe fermati. Ecco, oggi ci si rende conto che forse questa caduta verticale dell'economia, dell'occupazione, di tutto, dei mercati, del credito paralizzati, forse si sta fermando, si sta stabilizzando. Ecco, questo è indubbiamente positivo, ma questo non significa che avremo automaticamente una ripresa formidabile. Ecco, quello che dice Obama conferma un po' quello che dicono un po' tutti, diciamo, gli analisti, gli esperti di mercato, gli economisti: avremo una ripresa a U e non a V, quindi non un rapido rimbalzo, ma una U, quindi la stanghetta bassa della U sarà molto lunga e quindi non si sa quanto, ma il rischio è che sia parecchio lunga. E in tutto questo che cosa succederà? I tassi di interesse, lo dicevo prima, oggi le banche hanno i tassi di interesse quasi allo zero e caricano il 4-5%, quindi hanno degli straordinari margini di profitto. Segretamente il Tesoro auspica, la Fed auspica che ci sia un periodo quanto più lungo possibile in cui le banche possano fare grandi profitti e mettere soldi da parte, ma il rischio che poi ci siano altri default sui mutui e su altri strumenti finanziari ovviamente è molto presente. Abbiamo avuto un piccolo brivido ieri, se vuoi, quando un'asta del Tesoro piuttosto importante, 14 miliardi di dollari, non è andata esattamente come ci si aspettava. Il rendimento sul trentennale è stato del 4,3% e quindi superiore a quello che si aspettava il mercato. Questo ha creato ieri un piccolo blink nel mercato, che infatti ieri ha perso un centinaio di punti proprio per questa ragione. Per cui, guardando in avanti, l'equilibrio tassi di interesse, prospettiva inflazione, durata di questa crescita che non si capisce con che rapidità avverrà, questa è l'incertezza alla base delle dichiarazioni. E allora, con un tipico approccio economico, finanziario, incrociamo le dita, tocchiamo i cornetti a tutti quelli che sono in viaggio e non altro. Ringrazio Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, e Alberto Bisin, sempre da New York, dove insegna alla New York University. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni a voi tutti un augurio di buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.